questo libro è uscito un paio di mesi fa, è la pubblicazione, diciamo, del mio tesi di dottorato, quindi è il lavoro di ricerca che ho fatto per il dottorato, un lavoro lungo, è durato circa 4 anni. Riuscire a sintetizzare i contenuti di questo libro non è facile, però il titolo, insomma, richiama quelli che sono gli argomenti più importanti, appunto il 41 bis, l'ergastolo ostativo e il diritto penale del nemico. Sono 3 aspetti importanti sulla quale si basa tutto un dispositivo emergenziale che c'è in Italia da ormai quasi 30 anni, è legato ovviamente alla lotta, alla guerra che le istituzioni hanno fatto al fenomeno della criminalità organizzata, in particolare quello mafioso, ma non soltanto, che però ha prodotto appunto un dispositivo che ormai ha assunto degli aspetti permanenti, non più emergenziali, non più stato di eccezione, ma uno strumento afflittivo e di enorme, diciamo, sofferenza, che anche se avesse avuto una sua giustificazione nel momento in cui questo strumento è stato pensato e attivato, adesso continua a produrre, a infliggere la stessa sofferenza a delle persone, continuando a considerare queste persone dei nemici, facendo finta che ci sia ancora questa necessità, insomma, di mantenere in vita questi strumenti, come dicevo, come il 41 bis, che è una situazione che è stato non a mio dire, ma anche a dire di istituzione, sia di garanzia dei diritti umani sia nazionali che internazionali, che è molto vicino ai trattamenti inumani e degradanti e alla tortura. L'ergastolo ostativo idem, l'ergastolo ostativo significa ergastolo senza fine pena, cioè quindi un ergastolo effettivo, per cui una persona condannata a questo tipo di ergastolo non può mai uscire dal carcere, quindi è destinato a morire in carcere. Questo in un quadro appunto di diritto penale del nemico, quindi di un diritto penale non scritto, ma di un diritto penale così extra giuridico, ma che però c'è, ma che però esiste e quindi ed è applicato. Quindi un libro di denuncia, un libro dove per certi aspetti si mettono in evidenza le magagne dell'istituzione del codice penale. Ti vedo molto preso da questo argomento, quindi c'è anche un vissuto di carcere, di pene detentive, che ti ha spinto a scrivere queste cose. Sì, infatti io mi sono ritrovato all'età di 20 anni all'interno della sezione di alta sicurezza, dentro appunto questa macchina punitiva, pur essendo giovane, pur essendo straniero, pur non avendo nulla a che fare con la criminalità organizzata, mi sono ritrovato per una serie di automatismi che questo comporta a dividere, ad aspettare prima il processo e poi a scontare la pena, quindi a condividere con persone accusate appunto di criminalità organizzata un lungo periodo della mia vita, e quindi guardando queste sezioni dall'interno, vivendo la quotidianità con queste persone, ha fatto maturare in me non soltanto quel sentimento, diciamo così, di rivendicazione, di rispetto alla crudeltà di questo tipo di punizione, ma anche un senso di dovere, di dover appunto mettere questa mia esperienza, questa mia conoscenza, questa mia testimonianza in funzione a una denuncia, a una battaglia contro questo tipo di situazione.